due baiocchi, per la testa una canzone, il sorriso sulle labbra, dispiantando il vecchio blu. Passeggio in centro da per me, non ho pensieri anche se stasera suoni un bar. Nelle tasche due baiocchi, per la testa una canzone, il sorriso sulle labbra, fischiettando un vecchio blu. Passeggio in centro da per me, non ho pensieri anche se stasera suoni un bar. Nelle tasche uno scontrino.